Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A metà dell'anno scorso si presenta un problema da risolvere. Da gennaio un mio collega finlandese andrà in pensione e lo si dovrà sostituire. Mi propongono di prendere il suo posto. Mi vogliono mandare in Siberia. Sono Jesko, vivo a Krasnojarsk in Siberia. Ho 51 anni e faccio il caposcalo di una linea aerea. Mi ero promesso che prima dei 40 anni avrei vissuto da eremita nei boschi e sono andato a stare per 6 mesi in una capanna siberiana sulla sponda del lago Baikal. Ve ne avevo già parlato e vi avevo già letto un pezzettino di questo libro che si intitola Nelle foreste siberiane, scritto da Sylvain Tesson poco prima di Natale o attorno a Capodanno. Oggi raccontiamo una storia che è diversa ma è molto simile. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, ma soprattutto il programma si chiama Voi siete qui, un programma in cui ogni giorno chiediamo di raccontare delle storie e ogni giorno ne raccontiamo una. Le persone a cui chiediamo di raccontare le storie siete voi che state ascoltando e che avete voglia, se avete voglia, di condividere un pezzo della vostra vita, vi mettete lì, la scrivete e ce la inviate a voi siete qui @radio24.it. Quindi non lo chiediamo esplicitamente a ciascuno: tu mandaci una storia. In realtà per questa puntata è successo esattamente così, perché non capita spesso di ricevere una mail di un bergamasco che ti scrive: ciao, ti ascolto sempre, tutti i giorni, vivo in Siberia e gestisco un aeroporto, gestisco insomma una parte di una compagnia aerea di un aeroporto in Siberia, tra l'altro con un nome assurdo, perché Jesko, che dice di dove viene questa, è semplicemente bergamasco. Abbiamo cominciato a scriverci qualche mail con Jesko in cui ci raccontava di paesaggi, luoghi e temperature assurde proprio in Siberia. Sapete dove è la Siberia? Lì. Vi ho citato questo pezzo di Sylvain Tesson di Nelle foreste siberiane. Lui va a stare sul lago Baikal. Credo che sia più o meno da quelle parti, Jesko, in questo momento preciso. E più tardi lo sentiremo in diretta in modo da farci raccontare meglio dov'è e com'è. La vostra Siberia, in qualche modo. Non dovete lavorare per una compagnia aerea che vi spedisce là, ma ognuno di noi ha un posto in cui è stato, come dire, esiliato o si è autoesiliato, perché alla fine Jesko fa questo, cioè decide di andare a lavorare, glielo propongono e lui dice, adesso ce lo racconterà meglio, decide di andare. 349-238-6666 oppure Voi siete qui Radio 24 è il profilo Facebook, Voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Giulio scrive: mi sono esiliato nella mia Siberia per 4 mesi per prepararmi all'esame d'avvocato. Li ho passati in una casa nella Val Tidone, un periodo splendido addirittura. Val Tidone, che è Piacentino, giusto? Sì, il torrente Tidone, il Val Tidone, non è lontanissimo da qua, sarà più o meno un'ora e mezza. Alessandro: quando ero bambino mi mandavano 3 mesi in estate sull'isola di Capraia dove abitava mio nonno. Però Alessandro, scusami, credo che c'è gente che firmerebbe per questa Siberia. Non ricordo periodo più splendido, libero e a piedi nudi come quello lì. 349-238-6666, ogni giorno una storia diversa, ogni giorno un pezzo di vita di qualcuno. Provate a immaginare di conoscerlo Jesko, anche se non siete di Bergamo, siete però magari di una cittadina non troppo grande, ma anche se siete di Roma, ce l'avete, un amico che ha 2 figli e ha più o meno, credo, attorno ai 50 anni. Un giorno vi dice: sai cosa, mi mandano in un posto dove la temperatura è attorno ai meno 50 gradi. E voi gli dite: voi siete pazzo. Ecco, allora fate una cosa, se conoscete uno Jesko o se vi piace l'idea di conoscere uno Jesko, sentite un po' che cosa sta facendo. Lavoro in una compagnia aerea tedesca di cargo e dopo 23 anni di servizio in Europa mi viene proposta la gestione di uno scalo aereo, ma non a Barcellona, non a Malta e nemmeno mi spostano in altri scali in Italia. La destinazione è la Siberia. Vi sembrerà strano, ma si tratta di un grande risultato. È come se un ferroviere diventasse capostazione. Lavoro come responsabile handling e la passione per il mio lavoro è quasi una malattia. Ho una famiglia e 2 bimbe, ovviamente splendide, di 10 e 12 anni. Abito in provincia di Bergamo, dove ho lavorato all'aeroporto per 13 anni, finché un giorno la compagnia ha cessato di volare su Oriol Serio. Da allora ho girovagato per l'Europa a inseguire la mia passione per operatività a terra di grandi aeromobili. Per il mio lavoro sono stato a Malta, in Germania e in Spagna, ma questo in Siberia sarà il mio trasferimento più lungo. Le trasferte erano più o meno lunghe, ma riuscivo a tornare frequentemente a casa. Poi le destinazioni erano interessanti e la mia famiglia più volte veniva a trovarmi durante il fine settimana. Per 3 anni ho lavorato in ufficio a Milano, un lavoro diverso, più statico, basato su statistiche e procedure allo stato puro. 55 km di autostrada all'andata e 55 al ritorno, da lunedì al venerdì, sempre in scooter. A metà dell'anno scorso si presenta un problema da risolvere. Da gennaio 2014 un mio collega finlandese andrà in pensione e lo si dovrà sostituire. Mi propongono di prendere il suo posto. Mi vogliono mandare in Siberia. Lo scalo siberiano è un punto nevralgico per la nostra flotta. È lo scalo tecnico di 80 di voli tra andata e ritorno a settimana che vanno e tornano da tutta l'Asia. La decisione è molto sofferta, specialmente per quanto riguarda le mie bambine, ma questo è il mio lavoro. Abbiamo studiato tutto a tavolino. Per me e la mia famiglia non c'è stato il minimo dubbio. L'occasione non era di quelle di lasciarsi scappare. Ora, ogni 15 giorni, rientro a casa per 3 giorni pieni. Vivo in una situazione privilegiata. Macchina, casa, soldi, tutto perfetto. Certo, sono finito in un posto estremo, con meno 57 gradi d'inverno e più 30 gradi d'estate. Ci ho messo circa 8 mesi a decidere, vari sopralluoghi in Siberia, ho deciso di accettare l'incarico. Da questa parte del mondo mi chiedo spesso se ho fatto la scelta giusta, se sarò in grado di resistere per i prossimi 3 anni lontano da casa. Adesso faccio i conti con me stesso, sensi di colpa, solitudine, angoscia e paura. Sono sicuro di farcela, ma il prezzo per me sarà alto. Mi sveglio di notte ogni tanto e mi chiedo se questa è la mia casa, se il mio indirizzo è Utilizza Lenina 136 Krasnoyarsk. E mi rispondo che sì, lo sarà per i prossimi 3 anni almeno. L'effetto è dirompente, mi sprigiona dei sentimenti che in una situazione protetta non avrei. Non posso dire di essere contento, sto soffrendo, ma sono sicuro che troverò un equilibrio. Penso a tutte le persone che non possono scegliere quello che vogliono fare, e magari sono disoccupate e vengono sfruttate, subiscono sgradevoli umiliazioni. Sembrerà strano, ma io in Siberia ci sono finito perché ci volevo andare. E nonostante tutte le paure, le preoccupazioni, le notti insonni e il pendolarismo intercontinentale, io sono qui. Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors, Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour, sur la place rouge de nom de cœur, sur la place rouge de nom de cœur. L'amore è la cosa più importante che ci può succedere, ma il lavoro è una forma d'amore. Questa frase la dice una Marilyn Monroe in lacrime subito dopo aver rotto il suo matrimonio con Joe DiMaggio. Qualche giorno prima lei aveva girato la scena di Quando la moglie è in vacanza, in cui passa sopra la presa d'aria della metropolitana e le si alza il vestito. La storia vuole che mentre giravano si era creata una folla di persone che facevano un sacco di commenti. Lei si era divertita un sacco a mostrare le gambe e lui invece si era arrabbiato molto. Joe DiMaggio pretendeva che Marilyn Monroe diventasse una moglie italiana, sempre in cucina con un grembiule addosso. Ma lei era Marilyn Monroe e aveva fatto un'altra scelta. Ha fatto una scelta d'amore, perché anche il lavoro qualche volta è una scelta d'amore. Sì, perché in fondo siamo abituati ad associare il lavoro al compenso, l'ambizione, la carriera, ma il lavoro è anche e soprattutto una passione, non solo un mezzo per raggiungere un fine. E più i lavori sono estremi, faticosi, impegnativi, come quello di Jesco, e meno si è disposti a scendere a compromessi. Chi li fa perché non può farne a meno. Io sono molto affascinato da questo tipo di persone. Un po' vorrei essere come loro. E qualche tempo fa, nel mio diario, avevo fatto anche una sorta di lista personale di riferimento di queste persone. Il primo, e il primo anche per anzianità, è un mio vecchio parente, il Mario. Insomma, fino a 88 anni, tutte le mattine, Mario si svegliava, andava nel pollaio, mangiava qualche uovo crudo come colazione, poi bardava il cavallo e andava in campagna. Una volta da ragazzino gli ho chiesto chi glielo facesse fare. E lui mi ha risposto: l'esta vaca d'una passion de laurè la terra. È quella porca passione di lavorare la terra, mi ha detto, solo quella. Era il suo fardello, ma era anche la sua libertà, in qualche modo. Come lui, con qualche anno in meno, avevo conosciuto Tore, che era un pescatore di cernie di Salina, in Sicilia. Le cernie sono dei pesci intelligenti, hanno le loro tane e si pescano solo con il fucile. È una pesca che richiede tecnica e tempo. Tore avrà avuto 60 anni, tutti i giorni si immergeva in apnea e controllava le tane. Aspettava che le cernie crescessero e quando era il momento le cacciava. Era un lavoro molto impegnativo e pochissimo remunerativo, ma era il suo lavoro, non l'avrebbe cambiato con nessun altro. Il terzo personaggio è Silvano, è un amico di Perugia. Lui è un ingegnere che fa manutenzione ai tralicci dell'alta tensione. E anche se a casa ha due figli piccoli, è spesso in giro per il mondo per il suo lavoro. E quando sei su una di quelle torri d'acciaio, mi dice, col freddo, con il vento che le fa dondolare, e sei sperduto chissà dove nel silenzio, è in quel momento che mi sento di essere vivo. Il quarto invece è più giovane di me, si chiama Loris, è cresciuto in Valsesia, in mezzo alle montagne. Ha fatto il cameriere per un po', ma non ha resistito e ha fatto anche lui la sua scelta d'amore. Adesso vive a Vail, in Colorado, fa il maestro di sci. L'ultimo arrivato però nella mia lista, anche lui è partito dalla Valsesia, si chiama Elia e ha poco più di 20 anni. È un elicotterista. Lavorava per un'azienda edile, trasportava materiali sugli alpeggi dove non si poteva arrivare con altri mezzi. Quando l'azienda ha chiuso, lui ha fatto altri lavori, però la sera tornava a casa e spediva il suo curriculum dappertutto. Dopo qualche mese gli hanno risposto. In Australia avevano bisogno di un elicotterista e quindi avevano bisogno di lui. Non ci ha pensato due volte ed è partito. Elia ha anche un blog in cui racconta della sua vita in Australia e una delle prime cose che ha caricato è stato un video in cui c'è Michael Stipe, il cantante dei Ram. Lui, prima di attaccare un concerto, batte sul microfono e dice questa frase: We are R.E.M. and this is what we do. Perché è quello che facciamo che ci presenta, è quello che facciamo che dice chi siamo. Smash, smash, crack, crack, push, whack. Tie another one to your wraps, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Su una montagna, Jesco, però è autunno o è primavera, è vestito da montagna e mi sembra essere in Italia, però a questo punto da lui io mi posso aspettare qualsiasi cosa. Pronto, Jesco? Sì, ciao Matteo. Ciao, che piacere parlare con te. Siamo un po' lontani, però... Guarda, ma è un piacere proprio per quello, perché io prima, durante il brano, in diretta, sono andato, ho messo su quello che, insomma, si fa per capire dov'è un posto. Si va su Google e si mette il nome del posto che vuoi scoprire. E ho cercato che la tua città, che, ripetimi il nome, scusami... Si chiama Krasnoyarsk. Krasnoyarsk, ecco, vi prego, a casa fatelo, mettete Krasnoyarsk su Google e poi zoomate indietro. Sei in mezzo al nulla, mi sembra brutto per quelli che abitano lì di fianco a te, tipo i mongoli sotto, i kazaki dall'altra parte. Sì, siamo a 500 chilometri dalla Mongolia e circa 1000 chilometri dal lago Baikal, anche 800 chilometri dal lago Baikal, e poi vabbè, se vai a nord arrivi sul mar. Ah, quello che si vede lì a est è il lago Baikal, quello, è il Baikal. Esatto. Wow. È lungo 600 chilometri. Ma adesso, ad esempio, in questo, poi ho fatto anche un'altra cosa, ma questa è una mia perversione, ho proprio messo su Street View casa tua per vedere com'è casa tua e che negozietti hai sotto, e, insomma, visto che ci hai dato proprio l'indirizzo, no, nel racconto, allora sono andato, c'è un negozio, ma ci sono negozi di massaggi anche a Kranjska? No, è vero, ci sono tantissimi supermercati che sono aperti. H24 e sono uno dietro l'altro, non so perché, comunque la città è abbastanza grande, 1 milione di abitanti. Architettura ovviamente sovietica, evidentemente, urbanistica sì, anche. Non credo più da Cinisello Balsamo, perché è tutto rispetto Cinisello Balsamo. Senti, come ma... ad esempio, comunque, che temperatura... Che temperatura c'è? Una temperatura stamattina c'erano meno 6 e poi di giorno si va sui più 8, però settimana scorsa proprio quelle foto che ti ho fatto, ti ho mandato, sì, eravamo a più 23. Ok, allora dopo... Ci sono degli sbalzi termici molto notevoli. Dopo vi metteremo su Facebook anche la foto dell'aeroporto che ci ha mandato Jesco, che è ricoperto dalla neve, si vede il sole e neve dappertutto. Sì, sì. Facciamo, Jesco, facciamo un attimo un passo indietro, perché magari qualcuno si è perso dei passaggi della storia. Allora, tu lavori per un'azienda di trasporto aereo, giusto? Per una... Io lavoro per una compagnia aerea tedesca. Perfetto. E lavoro per la sezione per Riccardo. No? Ok. Ok. Okay. E questo posto qua mi è stato offerto circa un annetto e mezzo fa, quasi due, e mi hanno chiesto se ero interessato ad andare qua e venire come rappresentante di compagnia in Siberia. E la cosa particolare tua, mi sembra di capire, correggimi se sbaglio Jesco, che tu non eri abituatissimo ad andare in giro per il mondo, cioè hai lavorato a Bergamo, hai lavorato a Milano e a un certo punto ti hanno detto sai cosa, quello lì è esattamente nel mezzo dell'Asia dove i nostri aerei vanno e tornano dall'Asia e ci fanno uno stop, perché non vai là? Esatto, esattamente. Allora di primo impatto ho detto ma voi siete matti, uno che ama il mare, la montagna, così. E poi ho deciso, così, non senza dolore, a dire ma sì, ma perché trovo una cosa positiva, faccio una esperienza. Anche perché tu quanti anni avevi quando te l'hanno proposto? Cioè quanti anni hai adesso, perché non sei lì da tantissimo? Adesso io ho 51 anni, quasi 52. Ok, e tu hai una famiglia ovviamente? Sì, sì, la famiglia è in Italia, io faccio il pendolare. Ogni quanto torni? Io ogni 2 settimane e mezzo, 3 torno a casa. Ah, vabbè, diciamo, questa è la fortuna di lavorare per una compagnia aerea, tutto sommato. Esatto, cioè, le condizioni erano queste. Quanto devi stare lì ancora? Adesso per il momento 3 anni, poi vedremo di allungare, dipende da quello che si propone nel futuro. Però per il momento, se dovessi proiettarmi, starei anche di più. Ma Jesco, perché... capisci la mia domanda? Ne vale la pena? Secondo me sì. Okay. Secondo me sì, ti devi adattare a tutto. Ti devi adattare a tutto. Beh, perché il freddo è veramente tremendo, è gelo. L'inverno è buio, perché viene chiaro alle 10:30, alle 4 è buio. Le temperature d'inverno, quelle secche, sono dai 40 ai meno 50. E la città è molto inquinata perché insomma scaldano carbone, c'è un inquinamento atmosferico. Non ti faccio andare avanti perché mi si stringe un po' il cuore. Qui è primavera e torna quando vuoi. E quando torni, cerca di tornare magari a fine giugno, in modo che vieni al live del programma, ma e così certo, ci vediamo. Ovvio. Fallo combaciare, appena sappiamo la data te la comunichiamo. Jesco, grazie ancora per tutto, in bocca al lupo. Figurati, grazie a te. Ciao, a presto, grazie. Ciao, ciao, ciao. Io davvero, segnatevi, Krasnoyarsk. Andate a vedere dove si trova, cercatelo su Google e poi salutateci Jesco. A questo punto davvero lo aspettiamo al live. Avevamo lanciato come convocazione per gli ascoltatori su via SMS la vostra Siberia. Devo dire che non fa testo con quello che vi abbiamo appena raccontato. Però alcune storie e alcuni messaggi ci sono arrivato, anche se in realtà più che Siberia qua si parla di esilio. Federica, io mi esilio, la mia Siberia è lo sgabuzzino di casa mia. Quando non voglio sentire mio figlio e mio marito... Lì sarà per i libri o per i vecchi vestiti, sono in mezzo al nulla. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata anche oggi, ma andate a vedere, andate, Krasnoyarsk, andate a cercarlo. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni, grazie soprattutto a Jesco perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.